Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Tra i tanti problemi ambientali, uno dei più diffusi è tuttora quello delle coperture in cemento amianto, il famoso Eternit. Una delle principali difficoltà consiste nel fatto che queste coperture sono sparpagliate, sono diffuse a macchia di leopardo un po' su tutto il territorio. Per questo la Regione ARPA Piemonte ha avviato un'attività di mappatura che fa uso di tecniche molto avanzate. E io ne ho parlato con Enrico Bonansea, che è responsabile dei servizi informativi geografici di ARPA Piemonte, che ho incontrato ad un convegno. Sentiamo. Ma in modo molto sintetico, l'attività che abbiamo e che stiamo ancora svolgendo riguarda la mappatura dell'amianto di origine antropica e anche di origine naturale, ma in particolare per quella di origine antropica e quindi tutte le coperture di edifici sia civili che industriali. Il famoso Eternit, per esempio, che è proprio un mix di cemento e amianto, no? Esattamente. Più combinazioni diverse di questi materiali che negli anni sono stati prodotti in diversi decenni, sono oggi ancora molto presenti sul territorio regionale e per decreto ministeriale devono essere individuati, mappati sul territorio per poter poi essere studiati e valutarne il grado di deterioramento e quindi anche intervenire poi con dei piani di rimozione, di bonifica. Per svolgere questa attività, vista la dimensione anche di una regione come quella del Piemonte, l'unico strumento per poter iniziare a individuare i casi più critici è stato quello di rivolgersi al telerilevamento, quindi l'utilizzo di immagini aeree sia nel visibile che nell'infrarosso, che opportunamente combinate e classificate, consentono di individuare quelle coperture di edifici che hanno una più probabile presenza di materiali contenenti cemento amianto, sfrondando e eliminando tutte quelle altre coperture dell'uso del suolo che non sono in questo momento interessanti, come la vegetazione o le altre tipologie di coperture. E come si fa? Voi avete queste immagini e che tipo di elaborazione fate? Allora, le elaborazioni consistono nella fusione delle bande del visibile e dell'infrarosso vicino e nell'individuazione attraverso una serie di campioni che sono stati raccolti a terra con attività di sopralluogo, istruire il programma di classificazione a segmentare l'immagine e estrarre solo quelle coperture che per parametri statistici assomigliano a quei campioni con cui abbiamo istruito l'applicazione. Quindi a partire da questa immagine fate una specie di mosaico, ogni tessera avrà un suo colore, diciamo così, questo mix di visibile e infrarosso, voi riuscite a capire se realisticamente quell'oggetto lì è fatto di cemento amianto. Sì, esattamente, dalla combinazione appunto delle bande del visibile e dell'infrarosso vicino si individuano le coperture con potenziale presenza di questi materiali e si confrontano le risposte di questa classificazione con i campioni che abbiamo prelevato a terra in sopralluogo e da questo mosaico estraiamo quelle che sono le coperture più probabili, diciamo, perché esatto. Poi dovete andare sul campo, no? Dopodiché parte l'attività, esatto, di censimento viene definita in campo, in cui i nostri tecnici dei dipartimenti provinciali e il nostro polo amianto va a verificare l'esatta corrispondenza di quella copertura da noi individuata con un reale stato di presenza di cemento amianto e, molto importante, la valutazione dello stato dei quantitativi e per poi arrivare a fare quelle che sono le schede di criticità che poi potranno portare alla rimozione o interventi di bonifica da parte dei privati o quindi, con supporto. Insomma, un'attività di screening che vi serve a ridurre il campione di edifici da andare ad esplorare, altrimenti sarebbe un'impresa, ci vorrebbe un esercito. Dopodiché, addirittura, se ho capito bene, queste verifiche sul campo vi consentono anche di affinare ulteriormente la vostra capacità di riconoscere automaticamente, no, questi materiali. Certo, da quando abbiamo iniziato il progetto e abbiamo delineato questa metodologia, le attività e questo ciclo di feedback ci ha permesso di migliorare molto la modellistica che abbiamo messo a punto e arrivando a delle percentuali di successo nella classificazione che sono comunque significative. Quanto? Stiamo ragionando attorno al 75%. Insomma, direi molto buona. Senta, oltre al cemento amianto, su che cos'altro state lavorando? Su che cosa i sistemi geografici informativi possono dare un contributo? Beh, ARPA lavora su tutte le tematiche ambientali di cui si occupa con attività di sopralluogo, di verifica, di previsione, di monitoraggio. Quindi ci occupiamo dalla qualità dell'aria alla qualità delle acque, ai campi elettromagnetici, all'inquinamento acustico. Tutti questi questi dati confluiscono nelle banche dati settoriali, ma poi alla fine trovano nei sistemi informativi geografici un punto di trasversale che permette una visione sistemica di quello che è l'ambiente e un vero supporto alle decisioni sia per gli interventi che ARPA svolge sia per gli interventi che dovrà svolgere la pubblica amministrazione, le regioni e i comuni in particolare. Bene, grazie Enrico Bonansea di ARPA Piemonte. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì.